La speranza tu infondi a chi crede nell'amore. Fontana dei sogni, tu sussurri ad ogni cuore. Se in amor vuoi fortuna, getta un soldo e spera ancora. Guardo l'acqua luccica, forse dice puoi sperare. Fontana di Trevi, il mio sogno è tutto d'oro. Sento in me la speranza, credo solo nell'amore. Il mio cuore spera in te, crede in te. Solo nell'amor il mio cuore.